Al momento, a fronte di 5 allenatori cambiati lo scorso anno a questo punto, e ripeto, Spalletti alla seconda, Gregucci alla quarta, Donadoni alla settima, Papadopoulo all'ottava e sempre all'ottava la coppia Ruotolo Russo Livorno, quest'anno siamo imbattuti. Abbiamo ripristinato il collegamento con Renzo Olivieri, che ci sta per l'appunto dicendo che sì, da una parte probabilmente c'è una maturazione da parte dirigenziale, dall'altra c'è anche qualche problema economico sempre in più che suggerisce che uno stipendio per il tecnico è meglio di due. Sì, sono tutte e due le cose che secondo me spingono a questo andamento di cose. Io lo ritengo positivo, ma lo ritengo positivo per l'immagine dell'allenatore, perché certo, non poteva essere condizionato da due o tre risultati o un periodo negativo che ci sta comunque, perché il lavoro di un allenatore va visto nel tempo, c'è bisogno anche di consolidare certe cose che un allenatore fa, quindi sistema era un sistema surriscaldato, esageratamente surriscaldato, ora sembra surriscaldato per altre cose e non nei confronti degli allenatori, però fortunatamente ecco, per gli allenatori è un periodo, sembra un periodo abbastanza tranquillo.